Allora, siamo in mezzo a un castagneto, visto che non ci sono le condizioni per intervistare nessuno, devo auto-intervistarmi, e stiamo cercando di raggiungere Venaus attraverso un sentiero scosceso in mezzo ai boschi, con una discesa molto ripida, per evitare i blocchi della polizia. Già dopo un chilometro e mezzo del corteo c'è stato il primo blocco della polizia. Prima della trattativa hanno prima ancora manganellato i sindaci, in particolare il rappresentante dell'Alta Valle, davanti ai bambini. Si sono dimostrati un'altra volta delle bestie. E adesso tutti i valigiani sono stradeterminati a riprendersi il loro paese, Venaus. Ci siamo divisi in tre cortei diversi che stanno scendendo per tre stradine sterrate, appunto diverse, per cercare di raggiungere il paese evitando i blocchi. Veramente uno straordinario esempio di resistenza, di disobbedienza sociale alla quale partecipano tutti gli abitanti di Val di Susa. Questo è tutto per il momento, quest'oggi 8 dicembre 2005.